Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori di Roma. E niente, oggi anche a Genova si è mobilitata in maniera un po' diversa da quello che erano state le mobilitazioni dei giorni precedenti, cioè le scuole del Ponente, che è la parte più periferica e popolare di Genova, no? Che è una città spalmata, molto allungata. Quindi tutte le scuole del Ponente che sono organizzate, hanno fatto un corteo che partiva da Sestri, che è un quartiere molto popoloso del Ponente, e sono arrivati fino a Cornigliano, che è un altro quartiere, e poi hanno continuato. A Cornigliano hanno incontrato un presidio di metalmeccanici della SIOM, perché lì ci sono i cantieri dell'ILVA, e insieme a loro sono andati fino alla Lanterna. Che è anche una bella. Sciolto il corteo, un gruppo di 50 studenti e lavoratori della SIOM sono entrati alla Lanterna e sono saliti e hanno appeso uno striscione con scritto "Studenti e lavoratori uniti nella lotta". Che è anche una cosa abbastanza bella, dai, lo possiamo Assolutamente sì, dire. assolutamente sì. Un Genova che in questi giorni, tra l'altro, si è mossa parecchio. Leggevo appunto il corto dell'altro giorno, al di là del fatto che pare che la Digos stia cercando alcune persone attraverso i filmati e tutto, sperando che non li trovino mai, però mi sembra che è abbastanza viva Genova in queste giornate. Sì, più che altro la Digos, ci siamo svegliati tardi, però ci siamo svegliati la settimana scorsa, veramente a livello universitario. Gli studenti delle scuole superiori si erano svegliati un po' prima, però anche loro in ritardo rispetto al resto d'Italia. Quello che ha dato molto fastidio alla Digos è il fatto che sia stata lanciata l'altro ieri in corteo una secchiata di letame liquido addosso a due assessori. E Capita, giorni di questo, pioggia, no? nel senso, chi solitamente lancia merda quotidianamente, poi prima o poi, insomma, Sì, no, la prende appunto, indietro. appunto. Va bene, io ti ringrazio, poi avremo Sì, sicuramente noi occasione. Dimmi, ci sono altri ti appuntamenti dico subito che innanzitutto? noi domani alle 12:30 d'architettura avremo un'assemblea generale, diciamo delle facoltà, con anche studenti delle superiori e di vari collettivi, e sicuramente rilanceremo per la settimana prossima, cioè lanceremo degli appuntamenti di mobilitazione per la settimana prossima. Perfetto, allora teniamoci in contatto che sicuramente ci risentiamo. La Gionda Rossa è qua, a Ok. posto.